Crescere come Chiesa. Dal libro di Nehemia ho sentito spesso predicare dai pulpiti che il più grande mandato di Gesù per il credente, per la Chiesa, è quello di evangelizzare. Senza togliere nulla a questo comandamento che Gesù ha dato agli apostoli, credo che la priorità per la Chiesa non sia evangelizzare. Le ragioni sono due. Prima di tutto, per evangelizzare occorre avere il dono. E questo non tutti possono averlo. Infatti, come vi è il dono del profeta, del dottore, vi è anche quello dell'evangelista. Inoltre, se leggiamo anche superficialmente le lettere degli apostoli, l'esortazione maggiore è rivolta al cristiano e che cresca nella conoscenza di Cristo per avere una vita santa. Troviamo alcune esortazioni ad essere testimoni, ma tra l'essere testimoni ed evangelizzare vi è una grande differenza. Il fatto che nelle nostre chiese si metta enfasi sull'evangelizzazione ha prodotto una curiosa situazione che mi ha portato maggiormente a credere che il grande compito del cristiano non è evangelizzare. Chi non evangelizza perché gli manca il dono o per altri motivi si sente insoddisfatto e a volte colpevole anche se è un credente attivo nella chiesa, mentre chi evangelizza si sente realizzato e questo gli dà un certo diritto di non essere troppo coinvolto nella vita di Chiesa. Il grande mandato di Gesù per la Chiesa è di crescere. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. Allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Efesi 4, 11-16. In questo brano Paolo mette in evidenza che i doni sono dati perché noi possiamo crescere nella conoscenza di Gesù Cristo e perché maturando possiamo produrre la crescita del corpo, cioè della Chiesa. Per questa ragione inizieremo una serie di riflessioni che ci aiuteranno a crescere come Chiesa. Per questo studio non farò una ricerca di testi biblici, ma esamineremo l'opera di un uomo che Dio ha usato per compiere un compito simile a quello che dobbiamo fare noi, Neemia. Egli infatti si mise in cuore di edificare le mura di Gerusalemme. Considereremo dunque come la sua esperienza sia attuale e utile per noi. Il compito che Neemia si era prefissato di ricostruire le mura di Gerusalemme era molto arduo. Per capire il valore della sua impresa, basti pensare che altri avevano cercato di fare la stessa cosa prima di lui senza riuscirvi. Infatti leggiamo nel libro di Esdra che al tempo di Artaserse i giudei tentarono di costruire le mura ma non vi riuscirono. Esdra 4, 12 e 21. Come mai Neemia vi riuscì? Qual è stato il segreto del suo successo? Ho notato quattro motivi perché Neemia riuscì a portare a termine il suo compito, quattro motivi che sono pure indispensabili per noi perché possiamo crescere come Chiesa. A. Aveva un obiettivo. B. Ha cercato l'aiuto. C. Ha avuto costanza. D. C. È stata una consacrazione. Questi quattro punti saranno sviluppati nel seguente modo. Obiettivo aiuto. D. Impegno di denaro. Esaminiamo ora in modo particolareggiato ogni aspetto. O, B, E, T, T, V, O. La prima caratteristica di Menni è che chi studia deve sapere che cosa vuole diventare. Chi lavora non costruisce niente di buono se non ha davanti a sé un progetto. Questo vale anche nel campo spirituale. Vi sono cristiani che nella vita fanno progetti, ma nel campo spirituale vivono alla giornata. Una chiesa senza obiettivi, senza visione, non cammina ma si trascina. Forse ti chiedi come puoi avere degli obiettivi. Torna utile vedere come Neemia ebbe l'obiettivo di costruire le mura di Gerusalemme. A. Neemia amava il suo popolo e la causa di Dio. Parole di Neemia, figlio di Acalia, ora venne che ne. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati superstiti della cattività e riguardo a Gerusalemme 1, 1 a 2. Neemia era copiere del re e certamente non era in difficoltà. Stava sicuramente bene, viveva senza problemi, ma si informò di coloro che soffrivano, volle conoscere la situazione della sua città, dei suoi connazionali. Non si informò per pettegolezzo, per curiosità, ma perché amava il suo popolo. L'amore è la base di ogni sano movente. L'amore si interessa, si preoccupa. Ringrazio Dio che ogni credente ha l'amore per lo Spirito Santo sparso nel suo cuore, Romani 5:15. Forse non hai grossi problemi, grosse difficoltà. Ciò non ti esime nell'interessarti di coloro che soffrono, di coloro che hanno problemi per poterli aiutare. Interessati della Chiesa alla quale appartieni perché l'andamento della Chiesa rispecchia la tua situazione spirituale. Mi trovo d'accordo con la riflessione preghiera di André Dumas. Quando penso alla Chiesa, la vorrei tanto come essa non è. Avvincente, impegnata, chiaroveggente, militante, certamente anche multiforme, universale, segreta ed evidente. Ricca e corroborante, povera e trasparente. In breve, oh Dio, mi piacerebbe che la tua Chiesa, che è la nostra Chiesa, mi offrisse tutto quello che io non le do. Allora, oh Dio, fa che la smetta di spiare i suoi difetti dal buco della serratura, per esimermi dall'aprire la porta. Fa che abbandoni il banco degli spettatori e degli schermitori, per sedermi sul banco degli attori e dei celebranti, perché solo così finirò di guardare da lontano la tua Chiesa, che è la nostra Chiesa, per vivere in essa assieme agli altri. Amare Dio significa amare la Chiesa. Gesù era nella gioia, ma rinunciò al suo benessere per la Chiesa. B. Neemia viene a conoscenza del bisogno e reagisce. Essi mi dissero: i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia, in grande miseria e obbrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue porte consumate dal fuoco. Come udì queste parole mi posi a sedere e piansi, quindi feci cordoglio per vari giorni, e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. 1:3-4. Non si può avere un obiettivo di costruire se non se ne conoscono le necessità. Ogni chiesa deve crescere nell'amore e nella conoscenza di Cristo. Chi non ha questo obiettivo, o non conosce la situazione, o non ama la Chiesa come dovrebbe. Neemia, che fino a quel giorno è vissuto beatamente, piange, fa cordoglio, digiuna, prega. La vera preghiera, il vero pianto, il vero digiuno sono il risultato dell'amore. C. Neemia era un uomo fermo nelle sue decisioni. Nel mese di Nisan, l'anno 20° del re Artaserse, come il vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza, perciò il re mi disse: perché hai l'aspetto triste, anche se non sei malato? Non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora fui preso da una grandissima paura e dissi al re: viva il re per sempre! Come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? Il re mi disse: che cosa domandi? 2:1-4. A volte si vengono a conoscenza di fatti tristi e si rimane toccati. Poi il tempo cancella ogni cosa. Ma per Neemia le cose non furono così. Egli fece cordoglio nel mese di Chisleo, 1:1, cioè il mese di dicembre, e nel mese di Nisan, cioè in aprile, era ancora triste. 4 mesi di cordoglio, di preghiera e di digiuno. Era forse Neemia un uomo spesso dedito ai digiuni e ai sacrifici? No, era un uomo sempre allegro, 2:1, e questo valorizzava il suo cordoglio. Neemia non era instabile, né un uomo che si lasciava commuovere facilmente. Come siamo strani noi uomini. Le persone che sono sempre allegre ci ispirano poca fiducia. Guardiamo con più speranza a ragazzi che sono prevalentemente tristi, che hanno l'apparenza di austerità, di serietà. È vero che noi giudichiamo dall'apparenza. Un fratello prima di morire mi fece questa confessione. Quando tu e Duplipù frequentavate per la prima volta il nostro ambiente, avevo poca fiducia di te. Non avevo stima e né speranza per il tuo futuro. Ma ora mi sono ricreduto e devo confessarti che quello che pensavo di te dovevo attribuirlo all'altro. Io credo che sia più difficile godere sempre della gioia del Signore che essere sempre seri. Per essere seri non occorre molto, ma per godere della gioia di Cristo occorre un atto di fede non comune. Occorre fede, costanza, fermezza. Colui che si esercita di essere felice in Dio è colui che quando determina, decide, non si lascerà smuovere tanto facilmente. La Chiesa ha bisogno di uomini decisi, di persone che sanno mantenere gli impegni e che non si lasciano guidare dai sentimenti o dalle circostanze. Nessuno ha mai ottenuto un successo se non è fermo nelle sue decisioni, se non è pronto al sacrificio, all'autodisciplina, all'autocontrollo. A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace perché in te confida, Isaia 26:3. Uno dei principali responsabili per la nostra mancanza di autocontrollo è la nostra enfasi culturale. Sul desiderare l'espressione di sé. I nostri valori danno un'importanza esagerata ad ideali come l'apertura, l'autenticità, la trasparenza, l'affermazione di sé, la realizzazione del proprio potenziale e la sincerità. E tendiamo a considerare come ormai superati concetti come il sacrificio, l'autodisciplina, l'amore che rinuncia a se stesso, l'ubbidienza e la scelta di sopportare. Le nostre energie sono state indirizzate verso l'espressione più che verso l'autocontrollo. Il paradosso del cristianesimo è che l'autorealizzazione del proprio potenziale sia tramite l'autorinuncia. Neemia ha avuto un obiettivo che, come sappiamo, un obiettivo che viene da Dio ha alcune caratteristiche fondamentali. D. L'opera di Dio è sostenuta da Dio stesso. Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re. Se questo piace al re e il tuo servo ha trovato favore agli occhi tuoi, lasciami andare in Giudea, nella città dei sepolcri dei miei padri, perché possa ricostruirla. Il re mi disse, la regina stava seduta al suo fianco, quanto durerà il viaggio? E quando ritornerai? Così piacque al re di lasciarmi andare, e io gli indicai un termine di tempo. Poi disse al re, se così piace al re, mi si diano delle lettere per i governatori della regione oltre il fiume, affinché mi diano il lasciapassare finché sia giunto in Giuda, e una lettera per Asaf, sorvegliante della foresta del re, affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella, annessa al tempio, per le mura della città e per la casa in cui andrò ad abitare. Il re mi diede le lettere, perché la mano benefica del mio Dio era su di me. 2:4-8. Neemia aveva la strada appianata. Dio approva gli obiettivi di una chiesa con le circostanze favorevoli. E chi ha un obiettivo giusto prima pensa, agisce in segreto. Leggiamo al capitolo 2 dal versetto 11 a 16. Così giunsi a Gerusalemme e vi rimasi 3 giorni. Poi mi levai di notte assieme a pochi altri uomini, ma non dissi nulla ad alcuno di ciò che il mio Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me alcun altro giumento all'infuori di quello che io cavalcavo. Uscii di notte per la porta della valle, nella direzione della sorgente del dragone e della porta del letame, ispezionando così le mura di Gerusalemme che erano piene di brecce e le sue porte che erano consumate dal fuoco. Proseguii quindi per la porta della sorgente e la piscina del re, ma non v'era posto per cui far passare il giumento sul quale ero. Allora risalii di notte la valle, sempre ispezionando le mura, infine ritornai indietro, rientrando per la porta della valle, e così feci ritorno. I magistrati non sapevano dove io fossi andato né che cosa avessi fatto. Fino a quel momento non avevo ancora detto nulla né ai giudei né ai sacerdoti né ai notabili né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. 2:11-16. Lo zelo di Neemia non era una vampata di sentimento. Una chiesa matura si muove su dei principi, non sui sentimentalismi. F. Chi ha un obiettivo divino fa partecipe del suo piano. La riservatezza di Neemia non era fine a se stessa. Allora io dissi loro, voi vedete la misera condizione nella quale ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme. E così non saremo più nell'obbrobrio. Raccontai quindi loro come la mano benefica del mio Dio era stata su di me e anche le parole che il re mi aveva detto. Essi allora dissero, leviamoci e mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. 2. 17-18. Dopo aver riflettuto, Nemia partecipa. In una chiesa non vi è posto per l'individualismo. G. Il lavoro viene svolto per fede. Nemia sapeva che ciò che stava per fare rientrava nella volontà di Dio. Quando però Sanballat, l'Oronita e Tobia, il servo ammonita, e Geshem, l'arabo, vennero a saperlo, ci schernirono e ci disprezzarono dicendo: «Che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re?» Allora io risposi e dissi loro: «Sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi, i suoi servi, ci metteremo a costruire, ma per voi non ci sarà né parte né diritto né. Senza fede nessuna opera può essere compiuta. Una chiesa senza fede non regge. Essa deve perseguire il suo scopo anche di fronte alle evidenti difficoltà. Per crescere come chiesa abbiamo prima di tutto bisogno di una visione, di un obiettivo. Che ognuno di noi abbia il grande obiettivo di costruire la chiesa, di amare il fratello, di servirlo, di lavorare per il bene comune. A-I-U-T-O. Abbiamo considerato che Neemia ha avuto la visione, l'obiettivo di ricostruire le mura di Gerusalemme. Chi non ha un obiettivo non va da nessuna parte. Chi non ha una meta non la raggiungerà. Chi non sta andando da nessuna parte non può avere compagni di viaggio. Neemia aveva un obiettivo, ma ne ha fatto partecipe i suoi fratelli per avere dei compagni. A. Non lavorare da soli. Il credente con la nuova nascita viene a trovarsi in una nuova famiglia. Il suo essere cristiano non può che viverlo in seno ad essa. Una cosa che forse non tutti hanno compreso, o forse non tutti hanno accettato, è che un cristiano non può fare a meno degli altri. Non si può lavorare individualmente. Paul Tournier disse: «Ci sono due cose che non si possono fare da soli, sposarsi ed essere cristiani. E l'individualismo è il pericolo numero uno di una comunità. A volte pensiamo che una persona più è spirituale maggiormente può lavorare da sola. Invece è il contrario. Egli cerca la comunione, la collaborazione. Ecco un bellissimo esempio in Atti 11:19-26. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Ora alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia di questo pervenne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E, per la prima volta ad Antiochia, i discepoli furono chiamati cristiani. Una persona capace non è sinonimo di spirituale, perché vi è differenza tra capacità e spiritualità. Si può essere capaci e non spirituali, come si può essere spirituali e non capaci. Nel mondo sono le capacità che portano avanti le cose, nella Chiesa sono i doni. Forse è per questo che spesso sono le forti personalità che non riescono a inserirsi nella comunità. Noi che crediamo alla parola di Dio dobbiamo anche credere alle affermazioni scomode. Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adira contro tutta la vera sapienza. Proverbi 18:1-2. Notiamo in questo proverbio due cose. 1. Chi si separa cerca la propria soddisfazione. Quando si cerca la propria soddisfazione non si cerca quella degli altri. Non vi è una visione di chiesa. Non ci si impegna ad aiutare il prossimo. 2. Chi si separa si adira contro la sapienza. Per un ebreo essere adirato contro qualcuno non significa solo essere in collera, ma significa non amare, non cercare il bene dell'altro. Chi si separa quindi non solo non collabora, ma non ama. B. Neemia non cercava il proprio vantaggio. La parola di Dio è ricca di comandamenti perché il cristiano si inserisca, vivi in seno alla Chiesa e per la Chiesa. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi anche quello degli altri. 1 Corinzi 10:24. L'invito di Paolo è di occuparsi non solo di ciò che torna a nostro vantaggio, ma anche di ciò che è utile anche agli altri. C. Neemia non cercava il proprio piacere. Nella Chiesa non ci è spazio per i calcolatori. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. Romani 15:2. Nella Chiesa non ci è spazio per le soddisfazioni personali. Ciascuno stimi gli altri più di se stesso. Filippesi 2:3. Nella Chiesa non ci è posto per ambizioni personali. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. 1 Corinzi 14:26. Di uniti sia più forte. Due valgono meglio di uno solo, perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro. Ma guai a chi è solo e cade, perché non ha nessun altro che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme si possono riscaldare, ma uno solo come farà a riscaldarsi? Se uno può sopraffare chi è solo, due gli possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Ecclesiaste 4:9-12. Il libro dell'Ecclesiaste è molto pratico, esamina la vita dal punto di vista umano. Nella vita è molto importante avere compagni ed amici perché, prima o poi, hai bisogno. Gettate le basi della necessità della comunione fraterna, prendiamo in esame, nel racconto di Neemia, chi costruì e come costruì. Capitolo 3. Chi lavorò alle costruzioni delle mura? E costruirono assieme grandi e semplici personalità. Il sommo sacerdote. Eliashib, sommo sacerdote, si levò allora assieme ai suoi fratelli sacerdoti e costruirono la porta delle pecore. La consacrarono e vi misero i suoi battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che poi consacrarono, e fino alla torre di Hananel 3:1. Il sommo sacerdote era la più grande personalità religiosa del popolo, come per un cattolico il papa, o per un protestante il pastore o l'anziano, eppure facevano lavori manuali, orefici e profumieri. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Uziel, figlio di Arhaia, uno degli orefici. Vicino a lui lavorava alle riparazioni Hananaia, uno dei profumieri. Essi fortificarono Gerusalemme fino al muro largo, 3:8. Gli orefici e i profumieri erano certamente persone altolocate, distinte. Eppure facevano lavori manuali, i Leviti. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni, i Leviti, sotto Reshon, figlio di Bani, vicino a lui lavorava alle riparazioni per il suo distretto Ashadi, a capo di metà del distretto di Keila, 3:18. I Leviti avevano il compito di occuparsi del santuario, eppure facevano lavori manuali. I sacerdoti, dopo di lui lavorarono alle riparazioni i sacerdoti che abitavano nei dintorni, 3:22. I sacerdoti avevano il compito di offrire sacrifici, eppure facevano lavori manuali. I mercanti, fra la salita dell'angolo e la porta delle pecore, lavorarono alle riparazioni gli orefici e i mercanti, 3:32. I mercanti erano occupati nel trafficare le merci, eppure facevano lavori manuali. Poi tutti gli altri, cioè persone senza una grande importanza sociale. Questo quadro rispecchia molto bene come dovrebbe essere una chiesa. In una chiesa Dio ha chiamato persone di ogni rango e di ogni ceto sociale per lavorare assieme. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre a niente quelle che sono, affinché Dio ha scelto ogni tipo di persona per svergognare coloro che possono e non fanno. Questa è la realtà della Chiesa, e noi dobbiamo accettarla. Quindi, le personalità di alto rango, le personalità più dotate, non devono sentirsi superiori, come il credente di umile rango, con poche doti, non deve sentirsi inferiore. La Chiesa è l'unico posto al mondo dove ogni persona si deve trovare a suo agio. Ma è necessaria l'umiltà. Fare dei lavori manuali era molto probabilmente umiliante per certa gente. Il sommo sacerdote si sporcava. Il profumiere puzzava. Al mercante e al profumiere veniva certamente la carne greve. Infatti non tutti lavorarono. Vicino a loro lavoravano alle riparazioni i tecoiti, ma i nobili fra di loro non piegarono il collo per fare il lavoro del loro signore. 3-5. Purtroppo in una chiesa vi è sempre il nobile, cioè colui che non lavora. Questo dato di fatto non ci deve portare a scoraggiarsi. F. costruirono anche le donne. Vicino a lui lavorava alle riparazioni, insieme alle sue figlie, Shallum, figlio di Alloesh, capo di metà del distretto di Gerusalemme 3:12. Doveva essere veramente uno spettacolo insolito vedere delle donne in mezzo a tanti uomini. L'opera di Dio ha bisogno di tutti. La Chiesa ha bisogno di ogni singolo credente, anche della partecipazione femminile. Noi stiamo vivendo l'epoca delle profezie dell'Antico Testamento. Quando lo Spirito Santo riempì tutti coloro che erano nell'alto solaio, cioè uomini e donne, chi osservava tale evento rimase stupito. Ma Pietro giustificò quanto accadeva dicendo: questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i miei servi e le mie serve profetizzeranno. La profezia è diventata per la Chiesa di oggi una realtà. Nella Chiesa vi sono compiti sia maschili che femminili, e chi non accetta questa realtà perde le benedizioni che Dio ha elargito. Dopo aver visto chi costruì, vediamo come costruirono G. Costruirono spalla a spalla. 4. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Meremot, figlio di Uria, figlio di Coz. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Meshullam, figlio di Berechia, figlio di Meshezabel. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Zadok, figlio di Baana. 5. Vicino a loro lavoravano alle riparazioni Tecoiti, ma i nobili fra di loro non piegarono il cor. 6. Geoiada, figlio di Pasea, e Meshullam, figlio di Besodeia, restaurarono la porta vecchia. Ne fecero l'intelaiatura e vi misero i suoi battenti, le serrature e le sbarre. 7. Vicino a loro lavoravano alle riparazioni per la residenza del governatore della regione oltre il fiume Melataia, il Gabaonita, Gedon il Meronotita e gli uomini di Gabaon e di Mizpa. 8. Vicino a loro lavorava alle riparazioni Uziel, figlio di Arhaia, uno degli orefici. Vicino a lui lavorava alle riparazioni Ananaia, uno dei profumi. Essi fortificarono Gerusalemme fino al muro largo. 9. Vicino a loro lavorò alle riparazioni Refaia, figlio di Ur, capo di metà del distretto di Gerusalemme. 10. Vicino a loro lavorava alle riparazioni, di fronte alla sua casa, Gedaia, figlio di Arumaf. Vicino a lui lavorava alle riparazioni Hattush, figlio di Arim, e Hashab, figlio di Pahat Moab, ripararono un'altra parte delle mura e la torre dei forni. 12. Vicino a lui lavorava alle riparazioni insieme alle sue figlie, Shallum, figlio di Aloish, capo di metà del distretto di Gerusalemme. 13. Hanun ripararono inoltre 1000 cubiti di muro fino alla porta dell'Etame. 14. Malchija, figlio di Rechab, capo del distretto di Beth Hakerem, riparò la porta dell'Etame. La costruì e vi mise i suoi battenti, le serrature e le sbarre. 15. Shallum, figlio di Kolhese, capo del distretto di Mizpa, riparò la porta della sorgente. La costruì, la coperse e vi mise i suoi battenti, le serrature e le sbarre. Riparò inoltre il muro della piscina di Siloe, presso il giardino del re, fino ai gradini che scendono dalla città di Davide. 16. Dopo di lui, Neemia, figlio di Azbuk, capo di metà del distretto di Bet-Zur, lavorò alle riparazioni fin davanti alle tombe di Davide, fino alla piscina artificiale e fino alla casa dei prodi. 17. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i Leviti, sotto Rehum, figlio di Bani, vicino a lui. Lavorava alle riparazioni per il suo distretto Hashabia, capo di metà del distretto di Keila. 18. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i loro fratelli, sotto Bavvai, figlio di Enadad, capo dell'altra metà del distretto di Keila. 19. Vicino a lui, Ezer, figlio di Jeshua, capo di Mizpa, riparò un'altra parte delle mura, di fronte alla salita dell'arsenale, all'angolo. 20 dopo di lui, Baruch, figlio di Zabbai, ne riparò con ardore un'altra parte, dall'angolo fino alla porta della casa di Eliashib, il sommo sacerdote. 21 dopo di lui, Meremot, figlio di Uria, figlio di Coz, ne riparò un'altra parte, dalla porta della casa di Eliashib fino all'estremità della casa di Eliashib. 22 dopo di lui lavorarono alle riparazioni i sacerdoti che abitavano nei dintorni. 23 dopo di loro Beniamino e Hashub lavorarono alle riparazioni di fronte alla loro casa. Dopo di loro Azaria, figlio di Maseia, figlio di Ananaia, lavorò alle riparazioni presso la sua casa. 24 dopo di lui Binnui, figlio di Enadad, riparò un'altra parte delle mura, dalla casa di Azaria, fino alla svolta, cioè all'angolo. 25 Palal, figlio di Uzai, fece riparazioni di fronte alla svolta e alla torre sporgente dalla casa superiore del re, che era vicino al cortile della prigione. Dopo di lui fece riparazioni Pedaia, figlio di Parosh. 26 I Netinei, che abitavano sull'Ofel, fecero riparazioni fin davanti alla porta delle acque, verso est, e di fronte alla torre sporgente. 27 Dopo di loro i Tecoiti ne ripararono un'altra parte, di fronte alla grande torre sporgente e fino al muro dell'Ofel. 28. Al di sopra della porta dei cavalli i sacerdoti lavorarono alle riparazioni, ciascuno di fronte alla propria casa. 29. Dopo di loro Zadok, figlio di Immer, lavorò alle riparazioni di fronte alla sua casa. Dopo di lui lavorò Shemaia, figlio di Shecania, custode della porta orientale. 30. Dopo di lui Hananaia, figlio di Shelemaia, e Hanun, sesto figlio di Zalaf, ripararono un'altra parte delle mura. Dopo di loro Meshullam, figlio di Berechiah, lavorò alle riparazioni di fronte alla sua dimora. 31. Dopo di lui Malchija, uno degli orefici, lavorò alle riparazioni fino alle case dei Netinei e dei mercanti, di fronte alla porta di Mifkad e fino alla salita dell'angolo. 32. Fra la salita dell'angolo e la porta delle pecore lavorarono alle riparazioni gli orefici e i mercanti. Le parole chiavi di questo capitolo sono «accanto lavorò» oppure «dopo di lavorò». Queste espressioni si trovano più di 20 volte. Ciò fa pensare che essi lavoravano a spalla. Perché questo modo di lavorare? 1. Innanzitutto perché c'erano dei nemici per cui quindi lavorando spalla a spalla erano più forti. Anche la Chiesa ha i suoi nemici e se lavoriamo, camminiamo, viviamo vicini siamo più forti. 2. Perché vedendosi si facevano coraggio a vicenda. Quanto vale per la Chiesa? A volte pensiamo che la nostra presenza valga poco, ma sapessimo cosa significa vedere un fratello all'opera, essere presente alle riunioni. Forse tu metti un solo mattone mentre l'altro ne mette 10. Ti senti meschino, inferiore. Ma ricordati che se l'altro ne mette 10 è perché tu sei lì, perché tu ne metti 1. Ciò che è in alto non si regge senza ciò che è in basso. Quindi, se tu ne metti un mattone, ne metti 1 più 10, mentre l'altro ne mette 10 più 1. Conclusione. Facciamo tutti lo stesso lavoro. Un esempio di lavoro di armonia è l'episodio del paralitico. Quando i 4 uomini calarono il paralitico, dovevano calarlo con movimenti sincronizzati. Altrimenti sarebbe caduto. Occorre armonia nella vita di chiesa. Il più forte aspetta il più debole non deve giudicare il più forte. La chiesa ha bisogno di uomini che abbiano la visione di chiesa. Non si costruisce una chiesa se il lavoro è sparso e senza alcun obiettivo. Occorre essere uniti, e questo si riferisce alla preghiera. Occorre vedersi, e questo ci parla della comunione fraterna. H. Fecero un lavoro finito. I figli di Senaa costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i suoi battenti. Le serrat. Notiamo che i figli di Senea completarono una porta. La fecero bene e sicura. Non importa la grande mole di lavoro che si fa, l'importante è fare ogni cosa bene. Cosa sarebbe successo se i figli di Senea avessero costruita la porta senza sbarre? Sarebbe stata debole. La Chiesa prosegue il suo cammino quando si fanno piccoli passi, ma fatti bene. I Tosi operarono secondo il loro coraggio e capacità. Dopo di loro Beniamino e Hashub lavorarono alle riparazioni di fronte alla loro casa. Dopo di loro Azaria, figlio di Maaseia, figlio di Ananaia, lavorò alle riparazioni presso la sua casa. Dopo di lui Binnui, figlio di Enadad, riparò un'altra parte delle mura, dalla casa di Azaria fino alla svolta, cioè all'angolo. Palal, figlio di Uzai, fece riparazioni di fronte alla svolta e alla torre. Sporgente dalla casa superiore del re, che era vicino al cortile della prigione. Dopo di lui fece riparazioni Pedaia, figlio di Parosh. I netinei che abitavano sull'Ofel fecero riparazioni fin davanti alla porta delle acque verso est e di fronte alla torre sporgente. Dopo di loro i tecoiti ne ripararono un'altra parte, di fronte alla grande torre sporgente e fino al muro dell'Ofel, al di sopra della porta dei cavalli. I sacerdoti lavorarono alle riparazioni, ciascuno di fronte alla propria casa. Dopo di loro Zadok, figlio di Immer, lavorò alle riparazioni di fronte alla sua casa. Dopo di lui lavorò Shemaia, figlio di Shecania, custode della porta orientale. Dopo di lui Ananaia, figlio di Shelemaia, e Hanun, sesto figlio di Zalaf, ripararono un'altra parte delle mura. Dopo di loro Meshulam, figlio di Berechia, lavorò alle riparazioni di fronte alla sua dimora. Dopo di lui, Malchigia, uno degli orefici, lavorò alle riparazioni fino alle case dei netinei e dei mercanti, di fronte alla porta di Mifkad e fino alla salita dell'angolo. Fra la salita dell'angolo e la porta delle pecore, lavorarono alle riparazioni gli orefici e i mercanti. 3, 23, 32. Ci furono persone che fecero una certa mole di lavoro lontano da casa. Altri lavoravano solo vicino a casa, perché, molto probabilmente, avevano paura. Ma fecero qualcosa. Non tutti nella Chiesa abbiamo lo stesso dono o coraggio. E come evangelizzare? Vi sono persone che non sono intrepide nel predicare l'Evangelo, ma testimoniamo volentieri a vicini e parenti. Anch'io non mi sento portato a cacciare le anime, ma appena vi è un minimo contatto, sono pronto a parlare. Il compito principale di ogni cristiano non è evangelizzare, ma testimoniare. E la testimonianza inizia dalla propria casa, dai vicini. Leggiamo in Atti 9:31 che la prima chiesa moltiplicava. Noi a volte guardiamo la prima chiesa con invidia e vorremmo essere così pure noi. Non vi è niente di più facile. Se ognuno di noi porta una sola anima a conoscere il Signore in un anno, ogni sala entro 3 anni è piccola. Se siamo in 40 quest'altro anno saremo in 80, poi l'anno successivo in 160. Eccoci moltiplicati. Ecco una visione da avere, da chiedere, da perseguire. Elle lavorarono con ardore. Dopo di lui Baruch, figlio di Zabbai, ne riparò con ardore un'altra parte, dall'angolo fino alla porta della casa di Eliashib, il sommo sacerdote. 3 e 20. In questo lungo elenco di nomi spicca Baruch, che lavorò con ardore. Molti lavorano nella vita secolare nel campo di Dio, ma è difficile trovare gente che lavora con ardore. Vedere lavorare con ardore fa piacere e ti stimola a farlo anche tu. Forse uno degli ostacoli nel campo di Dio è proprio quello di lavorare con la voglia di non lavorare. Questo demoralizza. Spesso penso al profeta Geremia che scrisse: «Maledetto colui che compie l'opera dell'Eterno», fiaccamente, Geremia 48:10. Forse sono io responsabile se la Chiesa si trascina. È il mio modo di predicare, di esprimere il mio dono, che scoraggia. Ricordiamoci che ci influenziamo a vicenda. Vivo io allegramente la vita di Chiesa? È un peso per me frequentare le riunioni, essere cristiano? Qualcuno ha detto: la correttezza di ciò che facciamo spesso viene qualificata dalla qualità emotiva generata dal nostro comportamento. In parole povere, se una certa cosa ti fa sentire bene, falla. Questo è il metro più deleterio che esista. Noi siamo chiamati a compiere la volontà di Dio, sia che ne abbiamo voglia oppure no. È vero che siamo chiamati ad avere zelo, ad agire con ardore, ma se questo non vi è, dobbiamo ugualmente agire. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa, ma se lo faccio controvoglia, rimane sempre un incarico che mi è stato affidato. 1 Cronzi 9, 16-17. Paolo era cosciente di dover predicare l'Evangelo in qualsiasi stato d'animo si trovasse. Esprimi il tuo dono nello stesso modo. Oh, se tutti esercitassimo al servizio della Chiesa i nostri doni, indipendentemente dallo stato d'animo in cui ci troviamo. Ma per fare questo occorre della costanza ed è l'argomento che tratteremo in seguito. Abbiamo considerato in questo studio che per crescere come Chiesa occorre l'aiuto di tutti. Occorre l'aiuto di grandi e piccole personalità, occorre l'aiuto delle donne. Bisogna costruire stando molto vicini, costruire con coraggio e con ardore. Se vi sono queste caratteristiche, vedremo con gioia crescere la Chiesa alla quale apparteniamo. A. Necessità della costanza. Abbiamo preso atto che una Chiesa si costruisce se vi è la visione e l'obiettivo di vederla crescere. Abbiamo constatato come questo sia possibile solo se vi è la partecipazione di tutti i credenti. Ora considereremo la costanza, un elemento importante come la visione e l'aiuto, perché se senza visione non vi è l'aiuto, è anche vero che senza costanza non vi è dubbio che la costanza è una delle virtù più rare. Vediamo uomini che per ottenere successo nello sport o nella politica hanno una costanza da invidiare. Il cristiano che ha una meta e una corona incorruttibile eterna spesso non riesce a raggiungere l'obiettivo. Quante persone sono partite bene, ma sono arrivate male o non sono arrivate? Queste considerazioni sono quindi di una importanza vitale. Abbiamo già considerato che prima di Neemia altri tentarono di ricostruire le mura, ma non vi riuscirono, fallirono nel loro tentativo. Essi avevano avuto degli ostacoli che non erano stati capaci di superarli. Anche Neemia ebbe degli ostacoli. Ma come egli li superò sarà per noi un esempio per affrontare le difficoltà che incontriamo e incontreremo per crescere come Chiesa. B. L'opera di Dio incontra sempre ostacoli. Quando Sanballat venne a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si adirò, si indignò grandemente e schernì i giudei e disse davanti ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria: «Che cosa stanno facendo questi rammolliti giudei? Si fortificheranno? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere le pietre consumate dal fuoco dai mucchi di macerie?» Tobia, l'ammonita che gli stava a fianco, disse: «Costruiscano pure, ma se una volpe vi sale sopra, farà». Quando si fa la volontà di Dio, difficilmente le cose vanno sempre lisce, e questo non lo si dice per vittimismo, ma per due realtà. 1. La prima realtà la si trova in quella parte della scrittura che afferma: «Ho visto che ogni fatica e ogni successo nel lavoro risultano in invidia dell'uno contro l'altro». Ecc 4:4. Nel mondo vi sono sempre persone che sono invidiose per il successo di altri, e questo vale anche nelle cose spirituali. 2. La seconda ragione è che il mondo è il campo di battaglia tra Dio e Satana, quindi niente di strano che il diavolo cerchi in tutti i modi che l'opera di Dio non abbia successo. I nemici di Neemia pongono delle insidiose e provocatorie domande. A volte una domanda provocatoria urta di più che uno schiaffo. Chi ha il desiderio di crescere come Chiesa sarà certamente schermito da chi non ha questa visione. Oppure tu stesso ti poni tante domande che ti turbano. C. Necessità della preghiera. Ascolta, o Dio nostro, perché siamo disprezzati. Fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù. Non coprire la loro iniquità e non permettere che il loro peccato sia cancellato davanti a te, perché ti hanno provocato ad ira davanti ai costruttori. 4:4-5. Quando si è scherniti le reazioni non possono essere tante. O rispondere per le rime, e questo servirebbe solo stare al loro gioco, oppure confidare in Dio. Neemia e i giudei pregarono. Non è mai troppo parlare della preghiera e della necessità di pregare, perché se noi crediamo che l'opera di Dio la porta avanti, Lui, allora il nostro primo compito non sarà quello di fare, ma di stare in comunione con Dio. Soltanto Dio può spostare le montagne, ma la fede e la preghiera spostano Dio. Senza preghiera non si costruisce nulla di duraturo. Perché è così difficile pregare? Le ragioni sono tante. La prima è senz'altro perché la nostra natura non è incline a questo. E giustamente qualcuno ha detto: dobbiamo pregare quando siamo ben disposti, perché sarebbe un peccato sciupare una così buona occasione. E dobbiamo pregare quando non siamo ben disposti, perché sarebbe pericoloso continuare a rimanere in uno stato così insano. Un'altra ragione è perché quando si prega sembra di non fare nulla, e fare nulla è la cosa più difficile. Infatti la cosa più difficile per noi uomini non è operare, ma il non fare. E più difficile aspettare che agire, è più difficile tacere che parlare. Ecco perché è stato detto che la preghiera rafforza i deboli e indebolisce i forti. Pregare è anche un segno di umiltà. Coloro che sono soddisfatti di sé non vogliono pregare. Coloro che sono autosufficienti non hanno bisogno di pregare. Coloro che sono convinti di sé non possono pregare. Generalmente sono proprio le persone che non pregano quelle che non hanno tempo. Chi si prende tempo per pregare ha anche tempo per ogni altra cosa da fare. Sono troppo occupato, disse Lutero, per pregare meno di 3 ore al giorno. La Bibbia ci ricorda il valore della preghiera. Eliezer prega e compare Rebecca. Mosè prega e il Mare Rosso si divide. Mosè prega e l'acqua esce dalla roccia. Giosuè prega e il peccato di Acan viene scoperto. Anna supplica l'Eterno e riceve un figlio. Samuele prega e i Filistei sono sconfitti. Davide prega e il consiglio di Ahitofel viene annientato. Giosafat prega e Dio sconfigge i suoi nemici. Isaia prega e 185.000 uomini cadono morti. Esdra prega e il cuore del re si arrende. Daniele prega e il sogno del re viene rivelato. Pietro prega e Dorcas risuscita. La Chiesa prega e Pietro viene liberato. Paolo e Sila pregano e le porte della prigione s'aprono. I primi cristiani pregano e la terra trema. La tua Chiesa cresce perché c'è e chi prega. Satana potrà costruirci un muro intorno a noi per impedirci di muoverci, ma non può costruire un tetto sopra di noi. A volte siamo scoraggiati perché il Signore non risponde, ma capita spesso quello che disse un fratello. Egli si lamentava verso Dio dicendo: Signore, io ho pregato, pregato e pregato, e tu non hai risposto. Dio gli disse: figliolo, io ho risposto, risposto e risposto, perché non hai ascoltato? Le difficoltà aumentano. Quando però Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si adirarono grandemente e tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme. E alle difficoltà in una chiesa non sono sempre uguali. Esse aumentano in proporzione alla crescita della chiesa. Un esempio significativo lo abbiamo nella chiesa dei primi cristiani. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Atti 6:1. Non dobbiamo scoraggiarci se le difficoltà aumentano a man mano che la Chiesa cresce, perché questo è un segno positivo di salute spirituale. La Chiesa è simile ad un bambino che, finché è piccolo, i problemi sono piccoli, quando è grande le difficoltà sono in proporzione all'età. Torniamo un attimo ai giudei e vediamo come crebbero le opposizioni, cosa dissero i loro nemici. 1. Dissero che non avrebbero avuto successo. Quando però Sanballat, l'Oronita e Tobia, il servo Ammonita e Geshem l'Arabo vennero a saperlo, ci schernirono e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora io risposi e dissi loro: sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi, suoi servi, ci metteremo a costruire, ma per voi non ci sarà né parte né diritto né. 2. Dissero che il lavoro non sarebbe durato. Quando Sanballat venne a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si adirò, si indignò grandemente e schernì i giudei e disse davanti ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria: che cosa stanno facendo questi rammolliti giudei? Si fortificheranno, offriranno sacrifici, finiranno in un giorno. Faranno forse rivivere le pietre consumate dal fuoco dai mucchi di macerie. Tobia, l'ammonita che gli stava a fianco, disse: costruiscano pure. ma se una volpe vi sale sopra, farà tre. Pensarono di creare del disordine. Quando però Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei vennero a sapere che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si adirarono grandemente e tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme a quattro. Dissero che li avrebbero uccisi. Quelli di Giuda però dicevano: le forze dei portatori di pesi vengono meno e le macerie sono tante che noi non riusciremo a costruire le mura. Inoltre i nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi piomberemo in mezzo a loro e li uccideremo, così. 5. Tentarono di infangare il loro conduttore, cioè Neemia. Io andai allora a casa di Shemaia, figlio di Delaiave, figlio di Metabel, che si era rinchiuso là dentro. Egli mi disse: troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, perché verranno ad ucciderti, essi verranno a ucciderti di notte. Ma io risposi: può un uomo come me darsi alla fuga? Potrebbe un uomo simile a me entrare nel Tempio per salvare la vita? No, io non entrerò. Compresi poi che Dio non l'aveva mandato, ma aveva pronunciato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat l'avevano pagato. Era stato pagato proprio per questo, per farmi paura e indurmi ad agire in quel modo e a peccare, e così acquistare una cattiva fama e coprirmi di vergogna. 6:10-13. Cosa fecero coloro che costruivano le mura? Ma noi pregammo il nostro Dio, e a causa di loro ponemmo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte. 4:9. La preghiera deve essere unita all'azione, l'azione unita alla preghiera. E verrà lo scoraggiamento. Quelli di Giuda però dicevano: le forze dei portatori di pesi vengono meno, e le macerie sono tante che noi non riusciremo a costruire le mura. Inoltre i nostri avversari dicevano: essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi piomberemo in mezzo a loro e li uccideremo, così. Quando le opposizioni sono molte, è facile scoraggiarsi. Punto. Noi non riusciremo a costruire le mura. Se abbiamo l'obiettivo di crescere come Chiesa, prima o poi verrà lo scoraggiamento, per questo motivo. Dico per questo motivo perché lo scoraggiamento avverrà in tutti i modi, tanto vale che venga per una ragione valida. F. Bisogna reagire. Ma quando i giudei che dimoravano vicino a loro vennero per ben 10 volte a dirci: da qualsiasi parte vi volgerete ci saranno addosso, io disposi uomini armati nei luoghi più bassi dietro le mura, vi disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance e i loro archi. Dopo aver esaminato la cosa mi levai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: ricordatevi del Signore grande e tremendo, e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. Quando i nostri nemici seppero che eravamo informati della cosa e che Dio aveva fatto fallire il loro disegno, noi tutti tornammo alle mura, ciascuno al suo lavoro. Abbiamo constatato che Neemia era un uomo di preghiera. Di fronte alle difficoltà, egli ha invocato il suo Dio, ma non si è fermato qui. Neemia ha reagito e preso dei provvedimenti. Anche qui vi è una grande lezione. Quando sono in difficoltà, molti credenti pregano e poi non fanno nulla. Ma la preghiera da sola spesso non basta. Dopo aver pregato, noi abbiamo non da fare qualcosa, ma qualcosa da fare. Qualcuno disse: quando l'uomo prega, Dio ascolta. Quando l'uomo agisce, Dio interviene. Se Eliezer avesse solo pregato, come avrebbe potuto trovare Rebecca? Se Mosè avesse solo pregato senza che Giosuè andasse in battaglia, chi avrebbe vinto Amalek? Se Anna, la moglie di Elcana, avesse solo pregato per avere un figlio, sarebbe questo arrivato? Noi dobbiamo pregare con fede, e la fede la dimostriamo nel muoverci. Agire senza pregare è un atto di carnalità, pregare senza agire è un atto di immaturità. Per maturare noi dobbiamo pregare e agire, con la fiducia che Dio guiderà i nostri passi anche negli errori. Il nostro punto debole è che noi non vogliamo fare errori, ma a Dio non interessa tanto che non facciamo errori, interessa che abbiamo fiducia in Lui dopo aver pregato. Neemia dispose il popolo per famiglie. Forse non diamo molto peso a quello che ha fatto Neemia, ma il suo modo di operare è stato veramente sano. Perché? Perché una famiglia è una cellula, è un corpo compatto che può resistere molto di più che un numero di persone di ugual numero ma non uniti. E così è la Chiesa. Questo pensiero deve essere capito. In una Chiesa vale più una famiglia fedele che altrettanti membri fedeli non uniti come famiglia. Una famiglia ha una ragione per combattere, i figli, la casa. Dopo aver esaminato la cosa, mi levai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: «Non abbiate paura di loro! Ricordatevi del Signore grande e tremendo e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case». 4:14-15. Quando una famiglia combatte, è impegnata nella Chiesa, essa agisce per la verità, per dare gloria a Dio. Ma anche perché se crolla la Chiesa, crolla il luogo dove essa si esprime, dove essa ha amici. Il più grande impedimento, la paura. Il giorno migliore, oggi. La cosa più inutile, l'orgoglio. L'errore più grande, abbandonare la lotta. La più grande tranquillità, aver finito bene un lavoro. Le persone più sgradevoli, coloro che si lamentano sempre. Il più grande fallimento, perdita dell'entusiasmo. G. Pronti a combattere. Da quel giorno la metà dei miei servi si occupava dei lavori, mentre l'altra metà impugnava le lance, gli scudi, gli archi e indossava le corazze. I capi erano dietro tutta la casa. Quelli invece che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano, si occupavano dei lavori e con l'altra tenevano la loro arma. Tutti i costruttori, lavorando, portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi, mentre il trombettiere stava accanto a me. Lo dissi allora ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: il lavoro è grande ed esteso, e noi siamo sparsi sulle mura, distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là raccoglieteli presso di noi. Il nostro Dio combatterà per noi. Così proseguivamo il lavoro, mentre la metà degli uomini impugnava la lancia dallo spuntare dell'alba fino all'apparire delle stelle. Nello stesso tempo dissi pure al popolo: ciascuno di voi rimanga con il suo servo dentro Gerusalemme, per fare la guardia per noi di notte e lavorare poi di giorno. Così né io né i miei fratelli né i miei servi né gli uomini di guardia che mi seguivano ci toglievamo i vestiti, ma ognuno aveva la sua arma con acqua. 4:16-23. In questo brano Neemia mette in evidenza la prontezza dei giudei. La metà dei servi di Neemia, quelli che costruivano le mura e portavano i pesi mentre lavoravano, avevano pronti le spade per combattere. La Bibbia si può definire un libro con un messaggio di pace, ma non conosco un libro che parli di spade, di lance e di scudi come questo. Nel primo libro, la Genesi, dopo che Adamo ed Eva avevano peccato, Dio custodì l'Eden con dei cherubini muniti di spade. Nell'ultimo libro, l'Apocalisse, vediamo Gesù che aveva nella sua mano destra 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada a 2. Quando la Bibbia parla di spade, esse sono spade. Non è detto che la loro struttura sia sempre di ferro, ma sono comunque sempre delle spade. Anche Gesù parlava di spade. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato qualcosa? Essi risposero: niente. Ed egli disse loro: ma ora, chi ha una borsa, la prenda. Così pure una sacca, e chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto: egli è stato annoverato tra i malfattori. Infatti, le cose che si riferiscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: basta. Luca 22:35-38. Come succedeva spesso, i discepoli avevano compreso male, pensavano a delle spade di ferro. Ma Gesù stava dicendo a loro che essi, da ora in poi, dovevano praticare un metodo di esistenza diverso da quello adottato quando erano con lui. In pratica egli approvava quei metodi legittimi di difesa personale, simboleggiati nella spada. Sarebbero stati necessari quindi la borsa, la tasca, la tunica e ogni mezzo lecito per la sopravvivenza. La Chiesa non è composta da un nucleo di persone invertebrate, smidollate, senza carattere, senza polso. La Chiesa deve sapere vivere in pace, ma anche prendere coscienza che deve essere pronta a difendersi, se occorre, per il bene delle anime. Dovunque udrete il suono della tromba, là raccoglietevi, 4:20. Quando ci è il pericolo, raduniamoci. Il mercenario che scappa quando le pecore sono assalite dal lupo, ma chi ama le pecore le soccorre. L'unione fa la forza. La perseveranza cementa la forza. H. Il frutto della costanza. Or le mura furono condotte a termine il 25° giorno del mese di Elul, in 52 giorni. Quando tutti i nostri nemici lo vennero a sapere e tutte le nazioni che ci stavano attorno lo videro, si sentirono grandemente abbattuti perché si resero conto che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. 6:15-16. La perseveranza ha sempre il suo frutto. Nel caso di Neemia le mura furono finite nonostante l'invidia dei nemici. Una chiesa condotta da Dio crea sempre stupore. La gente si rende conto che, nonostante tutto, con Stark è stata la mano di Dio. Ma per il credente non è tutto finito. Rimane ancora una cosa da fare, la consacrazione. E questo è il prossimo soggetto che tratteremo. De impegno di denaro. Se Neemia ha potuto costruire le mura è perché ha avuto una visione, ha avuto dell'aiuto e della costanza, ma le cose non sarebbero andate avanti se non ci fosse stata la consacrazione. Così è per la Chiesa. Senza la consacrazione da parte dei membri essa non può sussistere. In un certo senso la consacrazione era presente in tutti gli aspetti che abbiamo visto fin d'ora. Ma a questo punto occorre una consacrazione totale. Parafrasando questa affermazione possiamo dire: abbiamo una Chiesa, formiamo i credenti. Prendiamo in considerazione cosa fece Neemia. A. Stabilì un ordine. Neemia si rese conto che una volta costruite le mura occorreva stabilire all'interno della città un ordine sociale e quindi stabilì subito delle autorità. Quando le mura furono terminate e io ebbi messo a posto le porte e i portinai, i cantori e i leviti, furono stabiliti nelle loro mansioni, io diedi il comando di Gerusalemme ad Anani, mio fratello, e ad Ananaia, governatore della cittadella, perché era un uomo fedele e temeva Dio più di tanti altri. E dissi loro: le porte di Gerusalemme non devono essere aperte finché il sole non scotta. E mentre le sentinelle sono ancora al loro posto di guardia, le porte vengano chiuse e sbarrate. Si stabiliscano delle guardie fra gli abitanti di Gerusalemme, alcuni al loro posto sulle mura e altri davanti alla loro casa. La città era spaziosa e grande, ma dentro vi era poca gente e non si costruivano case. 7:1-4. Quando si parla di autorità, significa che vi è chi guida e chi segue, chi dà ordini e chi li esegue. Il mondo sociale non può avere ordine se non vi è autorità. Così pure in una chiesa. Davanti a Dio siamo tutti uguali, ma ci è chi ha l'ufficio di guidare e chi è chiamato di seguire. Più passa il tempo e più mi rendo conto che l'argomento autorità è vitale per ogni istituzione. Personalmente tale argomento non ha mai costituito un problema, ma mi rendo conto che questo argomento merita più spazio di quanto ne diamo perché, che lo vogliamo o no, noi stiamo ricevendo l'influenza del mondo. Qual è l'influenza del mondo, mi chiederete? Ho presenziato ad un matrimonio. Il primo articolo che lesse l'autorità civile fu: i coniugi hanno pari diritti e doveri davanti alla legge. Allora ho chiesto alla persona incaricata se questo significava che il marito non è capo della moglie, ed essa mi ha detto che questo articolo era stato tolto dall'istituzione dal 1975 in poi. Le ho chiesto se questo articolo non deresponsabilizzasse il marito, ed essa convenne con me che in effetti vi era questo pericolo. Uomini che non sentono la responsabilità. Questo è il pericolo della Chiesa di oggi. Sono troppi i mariti e i padri che non si sentono responsabili se le cose non vanno bene in famiglia. E così sono troppi gli uomini che non sentono la responsabilità dell'andamento della Chiesa. Noi uomini dobbiamo ricordarci che in principio la donna è stata creata come aiuto dell'uomo e non viceversa. Questo principio va gridato a certi uomini e a certe donne, agli uomini che non si assumono le responsabilità ma le scaricano sulle donne, e alle donne che si assumono responsabilità deresponsacrano a Dio assumendo le loro responsabilità, i loro impegni, i loro doveri. Se io fossi una donna vedrei l'emancipazione piuttosto che discutere su quello che mi aspetta. Perché la donna non fa presente all'uomo quello che lui ha di diritto? Sì, dico diritto, non dovere. Se all'uomo viene ricordato i suoi diritti, gli viene anche ricordato che egli ha il diritto di essere il capo, cioè colui che ha il diritto di guidare, il diritto di assumersi delle responsabilità. Come capo, se le cose vanno male, il diritto responsabilità non è della donna, ma dell'uomo. E, bello essere dipendenti, non hai problemi di responsabilità. B. Stabilire dei patti. A motivo di tutto questo, noi prendiamo un fermo impegno e lo mettiamo per scritto, e i nostri capi, i nostri leviti e i nostri sacerdoti vi metteranno il loro sigillo, 9 e 38. Aver avuto una visione, aver avuto un aiuto, aver avuto della perseveranza, avere stabilito un certo ordine, non bastava. Occorreva ora che i giudei prendessero un impegno perché tutto quello che era stato fatto potesse andare a buon fine. Perché prendere un impegno? Non bastava l'entusiasmo o la buona volontà. N0. L'entusiasmo e la buona volontà non bastano perché essi sono mutevoli, mentre l'impegno, per chi ha del carattere, non è condizionato dagli umori. Così è nella Chiesa. Se una Chiesa cresce è perché vi sono persone che hanno preso degli impegni e li portano avanti. E per contrasto, se una Chiesa non cresce è perché vi sono persone che non hanno preso impegni. Non mi riferisco alle persone impegnate, ma a quelle che non prendono delle posizioni. Pochi hanno il coraggio di prendere degli impegni perché sanno che questo li condiziona, li rende responsabili. Purtroppo noi cristiani seguiamo sempre l'andazzo di questo mondo. Nel mondo è di moda convivere, senza prendere l'impegno di sposarsi. Non è uguale, mi direte? No, e lo dico per due ragioni. Innanzitutto, se fosse uguale, tanto vale che la gente si sposasse. Poi, ci si sente liberi di separarsi perché tanto non si sono presi degli impegni davanti alle autorità e davanti ai parenti. Così, nella Chiesa vi sono persone servizievoli che non vogliono dire pubblicamente che esse si impegnano in un certo lavoro. In questo modo fanno di tutto, ma non sono responsabili di niente. La Chiesa va avanti quando vi sono persone che prendono l'impegno di essere degli anziani e dei diaconi. È vero che si può comportare come anziani e diaconi senza impegnarsi, ma questo non responsabilizza e neppure edifica la Chiesa. Chi sono coloro che si impegnarono? Maazaia, Bilgai e Shemaia. Questi erano sacerdoti. I Leviti, Geshua, figlio di Asanaia, Binnui dei figli di Enadad e Kadmiel, e i loro fratelli Shebanaia, Hodinja, Kelita, Pelaia, Hanan, Mica, Rehob, Hashabia, Zakur, Sherebia, Shebanaia, Hodinja, Bani e Benino. I capi del popolo, Parosh, Pahat, Moab, Elan, Zattu, Bani, 10:8-14. Sacerdoti, leviti, i capi del popolo, cioè persone riguardevoli, di una certa posizione sociale. Non solo. Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei, tutti quelli che si erano separati dai popoli dei paesi stranieri per seguire la legge di Dio, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, tutti quelli che avevano conoscenza e intelligenza si unirono ai loro fratelli, i più ragguardevoli fra loro, e si impegnarono con esecrazione e giuramento a camminare nella legge di Dio data per mezzo di Mosè, servo di Dio, e ad osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti dell'Eterno, il nostro Signore, i suoi decreti, i suoi statuti, 10:28-29. Anche tutti coloro che erano in grado di intendere e volere le mogli, perché possa crescere occorre l'impegno di tutti. Abbiamo considerato precedentemente che tutti lavorarono, ma se si fossero fermati a questo punto, senza impegnarsi, non avrebbero combinato nulla di duraturo. In che cosa si impegnarono? In tre cose. C. A camminare, osservare, praticare la legge. Si unirono ai loro fratelli, i più ragguardevoli fra loro, e si impegnarono con esecrazione e giuramento a camminare nella legge di Dio data per mezzo di Mosè, servo di Dio, e ad osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti dell'Eterno, il nostro Signore, i suoi decreti e i suoi statuti. 10:29. I verbi non esprimono un impegno vago, ma la ferma volontà di ubbidire totalmente a Dio. Se questa decisione fosse presente nella vita di ogni credente, se noi ci impegnassimo ad amarci, a perdonarci, a sopportarci, di ERT, a donare del denaro. ci impegniamo tassativamente di pagare ogni anno il terzo di un periservizio della casa del nostro Dio, per i pani della presentazione, per l'oblazione perpetua di cibo, per l'olocausto perpetuo dei sabati, dei noviluni, delle feste stabilite, per le cose consacrate, per le offerte, per il peccato, per fare espiazione, per Israele e per ogni lavoro della casa del nostro Dio. Inoltre, tirammo a sorte tra i sacerdoti, i leviti e il popolo circa l'offerta della legna da portare nella casa del nostro Dio, ogni anno a tempi fissati secondo le nostre case paterne, perché bruciasse sull'altare dell'Eterno, il nostro Dio, come sta scritto nella legge. Ci impegniamo pure a portare ogni anno nella casa dell'Eterno le primizie del nostro suolo, le primizie di tutti i frutti di ogni albero, e i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame, come sta scritto nella legge, e i primogeniti delle nostre mandrie e delle nostre greggi, per presentarli nella casa del nostro Dio, ai sacerdoti che prestano servizio nella casa del nostro Dio. Inoltre ci impegniamo a portare ai sacerdoti nelle camere della casa del nostro Dio le primizie della nostra pasta, le nostre offerte, i frutti di ogni albero, del mosto e dell'olio, e ai leviti la decima del nostro suolo. I leviti stessi preleveranno le decime in tutte le città dove noi lavoriamo. Un sacerdote, discendente di Aaronne, sarà con i leviti quando i leviti preleveranno le decime, e i leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio nelle camere della tesoreria, perché in quelle camere i figli di Israele e i figli di Levi porteranno l'offerta del frumento, del mosto e dell'olio. Qui sono gli utensili del santuario, i sacerdoti che prestano servizio, i portinai e i cantori. Noi non abbandoneremo la casa del nostro Dio. 10:32-39. Il rito ebraico doveva essere svolto. Esso comportava un certo onere, perché occorrevano animali, olio, pane e sacerdoti. Ma la liberalità dei giudei non si fermava strettamente alla legge. Alcuni capi delle case paterne donarono per il lavoro di costruzione. Il governatore diede al tesoro 1000 dalici d'oro, 50 coppe, 530 vesti sacerdotali. Alcuni capi delle case paterne diedero al tesoro per il lavoro di costruzione 20.000 dalici d'oro e 2.200 mine d'argento. Il resto del popolo diede 20.000 dalici d'oro, 2.000 mine d'argento e 67 vesti sacerdotali. Così i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, alcuni del popolo, i netinei e tutti gli israeliti si stabilirono nelle loro città. Quando giunse il settimo mese, i figli di Israele erano nelle loro città. 7:70-73. Alcuni giudei portarono altre offerte volontarie. Per capire il valore dell'offerta di 2.200 mine d'argento occorre fare un confronto. Una mina era pari a 100 giornate di lavoro, quindi diedero un valore di 220.000 giornate di lavoro. Ciò significa che alcuni capi delle case paterne diedero il valore di quello che guadagnano più di 24 operai in 35 anni di lavoro. Perché? 220.005. Trovo quante settimane di lavoro ci sono, cioè 440.000. 52/35. Trovo le settimane che deve lavorare un operaio in 35 anni, cioè 1820. 440.000, 1820. Trovo quanti anni di lavoro vi sono in tutto, cioè più di 24. Stupenda l'ultima frase del capitolo, e a questo punto comprensibile. Noi non abbandoneremo la casa di Dio. E così è per la Chiesa. Anche se non abbiamo animali da offrire, vi è sempre un certo onere da sostenere, il luogo di culto, il pane e il vino. In certe confessioni religiose vi è pure il sostentamento di una persona che si dedica a tempo pieno per la Chiesa, pastore o anziano. Conosco una chiesa che è cresciuta perché vi sono state delle persone che hanno preso l'impegno di dare le decime delle loro entrate, e anche di più. Quando il Signore mise in cuore alla chiesa di comprare un locale di culto, la paga mensile di un operaio era di circa 60.000 lire. La maggioranza dei membri di chiesa, oltre alle decime che regolarmente davano ogni mese, si impegnò di dare 100.000 lire per Natale. Ciò significava donare tutta la tredicesima e qualcosa in più. Non tutti i cristiani hanno compreso questo. Il denaro che abbiamo non è nostro, esso appartiene a Dio. Così se vogliamo dimostrare a Dio che tutto di noi gli appartiene, dobbiamo dare a Lui e per la sua opera almeno le decime delle nostre entrate. E consacrare un luogo. I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme. Il resto del popolo tirò a sorte per far venire 1 su 10 ad abitare a Gerusalemme, la città santa, gli altri 9 decimi invece dovevano rimanere nelle altre città. Il popolo benedisse tutti quelli che spontaneamente si offrirono di abitare a Gerusalemme. 11:1-2. Dopo essersi impegnati di osservare la legge di Dio e il proprio denaro, occorreva per i giudei un altro passo importante. Gerusalemme era una città vuota e occorreva che fosse abitata. Come fare? Alcuni spontaneamente andarono ad abitarvi, ma essendo ancora pochi, tirarono a sorte perché qualcuno si stabilisse a Gerusalemme. Quando si è in distretta, la sorte può diventare una soluzione se fatta con fede. Non sarebbe sbagliato questo metodo anche in chiesa. La vita di chiesa deve procedere e se occorre del personale, qualora non si trovasse, non sarebbe poi traumatico se si passasse alla sorte. La sorte presuppone che tutta la chiesa sia consacrata e credere che Dio sia sovrano nella scelta. F. Il risultato della consacrazione. Alla dedicazione delle mura di Gerusalemme, mandarono a cercare i Leviti da tutti i loro luoghi. Per farli venire a Gerusalemme, per celebrare la dedicazione con allegrezza, con lodi e con canti. Cembali, arpe e cetre, mezzogiorno e 27. In quel giorno offrirono grandi sacrifici e si rallegrarono perché Dio li aveva allietati con una grande gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono. E la gioia di Gerusalemme si udiva da lontano. Mezzogiorno e 43. Il risultato finale non può essere che la gioia da parte di tutti, donne e bambini. La gioia di Gerusalemme si udiva da lontano. Una chiesa che cresce fa la volontà di Dio. Una chiesa che cresce è nella gioia di Dio. Una chiesa che cresce viene notata dagli altri perché la loro gioia si udirà da lontano. Ciò che impedisce la crescita di una chiesa è il non sapere rallegrarsi nel Signore. Questo denota due cose: mancanza di fede e problemi personali irrisolti. Prendiamo quindi sul serio l'invito di Neemia. La mia preghiera è che la tua chiesa possa vivere in modo tale che le anime alla ricerca di Dio, quando entrano in sala, vi troveranno a lodare il Signore in modo tale che i segreti del loro cuore sono messi in luce. E così, gettandosi giù con la faccia a terra, adoreranno Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. 1 Corinzi 14:25. Modena 5 1970 e maggio 1993.